Arrivo da una notte difficile, agitata. Sarà stata la digestione o quel vuoto che mi prende ogni tanto prima di andare a dormire? Sta di fatto che ieri ho fatto un sogno davvero pessimo. Sono all'ufficio anagrafe, con un modulo da compilare e con le crocette sì o no che mi aspettano per la mia carta d'identità, la mia carta d'identità di donna. Età? Un'età difficile. Moglie? No, sono divorziata. Madre? No, ho scelto di non avere figli. Figlia? Sì, ma di un solo genitore, mia madre. Sorella? No, sono figlia unica. Amante ufficiale di qualcuno? No, in questo momento no. Contratto di lavoro a tempo indeterminato? No, sono una giornalista freelance. Bene, ho finito. L'impiegato scompare per un bel po' dallo sportello e quando torna, torna con il mio modulo tutto stropicciato, pieno di buchi. Questa è la sua carta d'identità, se la prenda, se ne vada e si vergogni. Quando mi sveglio mi sento a pezzi. Ma è vero che sono messa così male? Che sono tutto un buco, una mancanza? Ma sono proprio tutti no e zero sì le mie risposte? Già, però se mi facevano altre domande, magari andava meglio. Ad esempio, se mi domandavano, la tua vita ti assomiglia? Ti senti amata dai tuoi amici? Ti svegli spesso con un sorriso? Ti senti una persona fortunata? Vivi le tue passioni, i tuoi desideri? Beh, avrei potuto rispondere sì a tutte quelle domande e forse quella carta d'identità sarebbe stata un po' meno strappata. Già, ma che stupida che sono. Lo so che rispondere sì a quelle domande per una donna nelle mie condizioni non va bene, è una provocazione. Me ne dimentico sempre. Se sei figlia unica, senza figli, marito e senza neanche uno straccio di contratto di lavoro, è obbligatorio stare male. La gente ti guarda strano se sorridi, se dici che sei piena di idee, di energie, di desideri. Ma dai, ma chi la racconti? Ormai sei grande, no? Insomma, diciamocelo chiaro, la tua posizione non ha alcuna dignità sociale. Se sei una donna come me, sei una donna sola e basta, e ti devi sapere comportare di conseguenza, insomma. Ce l'hai presente? Solitudine? Insicurezza, frustrazione, ansia, malinconie improvvise, buco allo stomaco, perché se no che cosa pensano di te quelli che ho fatto un figlio per salvare il matrimonio e anche il mutuo? E la sera siamo così stanchi che delle volte ci addormentiamo ancora prima di andare a letto. Che cosa pensano di te se non vedono che anche tu sei un po' triste, un po' esaurita? Alla fine gli dai anche un po' fastidio, no? E poi ricorda, finché sei giovane fai anche la libera, ma poi a una certa età, dai, basta però, no? Hai presente paura, vecchiaia, solitudine, malattie? E senza nessuno vicino che ti cura? Ma come fai? E con chi parli? E se ti trovi ad avere come unica amica la badante? No, tranquilla, quella non ti può succedere perché non hai abbastanza soldi per potertelo permettere. E allora il buco mi prende allo stomaco. Ho bisogno di incontrare altre persone, ho bisogno di confrontarmi. Ma sono sbagliata io? Esisto io? E anche se tutti quei ruoli non li posso vivere, ci sono? Ma con chi ne parlo? A chi lo domando? Con chi ne parlo? A chi lo domando? Vabbè, chiedo in giro. Faccio la giornalista, no? E allora usiamolo questo benedetto lavoro. Pochi giorni dopo invito a cena una mia amica albanese, che si mette a raccontare una strana storia. Mi dice che per oltre 500 anni, nelle montagne a nord del suo paese, se una donna non aveva maschi in famiglia e non si voleva sposare, per gestire terra, averi e dignità, aveva una sola possibilità: diventare un uomo. O meglio, una vergine giurata. Ma che storia è questa? Tra le montagne, a nord dell'Albania, quando non ci sono più maschi in famiglia, le donne sole e nubili, dunque vergini, che non desiderano sposarsi, hanno una sola chance: diventare uomini. Un cambio di identità dove il sesso non c'entra, è l'abito sociale che conta. La donna rinuncia a farsi una famiglia, si taglia i capelli, si veste con abiti maschili e inizia a comportarsi come un vero uomo. Decido di partire. Sono a Tirana. Acquisto una copia del codice del Canun in versione italiana. Un antichissimo codice d'onore che per lungo tempo ha regolato comportamenti e faide nelle montagne sopra Scutari, tra il Kosovo e il Montenegro, esattamente la zona dove io sto per andare. Andrò a incontrare Pushka, una delle poche vergini giurate ancora esistenti in quel paese, una donna che, quando la incontro a 66 anni e che a 28 anni ha deciso di diventare un uomo. Una decisione che ha dovuto fare per riconquistare diritti e dignità. Da ore non vedo un bar, una piazza, una bottega, un cimitero, un luogo d'incontro qualsiasi. Solo un lungo fiume quasi in secca, infide pietre, qualche mucca al pascolo e queste montagne, dove le uniche risorse sono qualche animale da cortile, il raccolto dell'orto e le rimesse degli immigrati all'estero. Arrivo. Un lungo fiume e un luogo arido, fatto di fatica e silenzio, dove si nasconde un piccolo villaggio dalle finestre sempre chiuse. Qui la porta allo straniero si apre solo se l'ospite è ben introdotto. Io per fortuna lo sono. Da una parte c'è Cosetta, che insegna italiano all'Università di Tirana. Dall'altra c'è un giudice di pace, una sorta di mediatore culturale, prezioso ponte tra la giustizia ufficiale e la legge delle montagne. Ma ora non c'è più tempo di pensare. Siamo a casa di Pushka. Cerco di prepararmi all'incontro. Fino a quel momento di lei avevo visto solo una foto che la ritraeva prima del suo cambio di identità. Una ragazza dal viso dolce, che ricorda le nostre donne del sud una cinquantina d'anni fa. Ma ancora una volta la realtà ferma ogni pensiero. Pushka è di fronte a me. L'impatto è sconvolgente. Il suo sguardo è duro, la sua stretta di mano troppo energica e la sua voce rauca, come quella di un uomo che fuma troppo. Appena entriamo in casa, Pushka mi fa accomodare e, come impongono le regole dell'ospitalità, il raki, anche se ancora mattina, scorre a fiumi. Da questo momento in poi, alcol e sigarette non si contano più. Pushka, posso chiamarla così, con il suo nome al femminile? Certo, tanto siamo in casa, ma per tutti là fuori, io sono Pushka. A che età ha scelto di rinunciare alla sua identità di donna? Era il 1967, avevo 28 anni, ora ne ho 66. La maggioranza della sua vita, dunque, l'ha passata nei panni di un uomo? Sì, ma non ho mai calcolato gli anni, ma i miei guai. Che cosa significa? Voglio dire che da quando sono Pushkin la mia vita è decisamente migliorata. Ora sono rispettata, partecipo alle riunioni degli uomini e alla loro vita sociale. Ho un ruolo in questo mondo. Cosa vuol dire far parte del mondo degli uomini? Significa diventare più forti e contare qualcosa. È una grossa soddisfazione personale e pubblica. Io sono nata nella regione del Dudkashni, nella terra del Kanun. Qui solo le vergini, le donne sole, rimaste senza maschi in famiglia, possono diventare uomini ed avere pari diritti. È una delle poche occasioni, se non l'unica, che una donna poteva avere per essere considerata. Io sono stata la prima vergine giurata del mio villaggio e ne sono orgogliosa. Sì, certo, è stato un po' pesante tagliarsi i capelli, decidere di non sposarsi, non avere figli, iniziare a vestirsi, pensare e comportarsi da uomo. Ma per quanto mi riguarda, nessuno mi ha costretta a farlo. Ero perfettamente cosciente di quello che sarebbe stata la mia vita e il mio futuro. Le mie montagne mi hanno dato la forza per sostenere questa scelta. Nella mia famiglia non c'erano più maschi. Nel 1945, durante il comunismo, i miei 4 fratelli sono stati fucilati. Mio padre è morto prima che io nascessi e mio zio, dalla guerra, non è mai più tornato. Tutto quello che avevamo è stato bruciato, casa compresa. Per dare di nuovo un nome e una dignità alla mia famiglia, ho deciso di diventare una Burnesh, una vergine giurata, un uomo. Da quando sono diventata Pushk, ho riconquistato i miei diritti, compreso quello di uccidere per vendetta, ma non mi sono mai avvalso di questo potere. I maschi della mia famiglia non sono stati uccisi da una persona, ma dallo Stato. Dunque ho deciso di lasciar perdere. Ho pensato che non potevo reagire né vendicarmi, anche se sarebbe stato giusto farlo. Oggi, tanto, la vera legge del Kanun non la segue più nessuno. Quel codice d'onore è diventato solo un pretesto per vendicarsi di torti personali o per guadagnare soldi. Dunque preferisco non entrare in queste storie, in queste situazioni poco chiare. Preferisco dire che è stato Dio che mi ha fatto fare questa scelta. Nessun altro mi ha aiutato al di fuori di lui. Mia madre. Io sono stata allevata da uno zio e dalla nonna paterna. Mia madre l'ho conosciuta poco. Un giorno l'ho anche cercata. Avevo 19 anni. Ero ancora Pushka a quel tempo. Lei si era sposata con un altro uomo quando io avevo solo un anno. Dunque, quando ho deciso di diventare un uomo, mia madre non poteva permettersi di dire proprio niente. A me, del resto, non è mai passato neanche per la testa di chiedere la sua approvazione, tantomeno la sua comprensione. Nessuno si è mai mischiato nella mia decisione e anche se fosse venuto il segretario del partito, non l'avrei neanche considerato. La Chiesa, invece, ci tengo a dirlo, ha accettato la mia scelta e ne sono felice, sono cattolico io. Vado a messa tutte le domeniche. Sono stato battezzato e cresimato nel 1939, prima che arrivasse il comunismo. Da quando sono Pushk, le donne hanno incominciato a guardarmi come una capra nera in mezzo alle pecorelle, ma io non le ho mai considerate. E ora, dopo tanti anni, si sono finalmente abituate. Di me pensino pure ciò che vogliono, non mi interessa. Io non ho nessun contatto con loro. I miei amici sono solo uomini. Solo con loro posso confrontarmi e discutere. Sì, lo so che i tempi sono cambiati. Oggi le donne, per essere rispettate, non hanno certo bisogno di fare quello che ho fatto io. Anzi, quelle là fuori si fanno sentire anche troppo, più di quello che devono. Ma io la penso in un altro modo. In Albania le donne non sono state educate con l'idea di superare l'uomo, né nella fatica né nel piacere. È lui che ha la responsabilità di tutto, compresa la sicurezza degli ospiti e di tutta la sua famiglia. E anche se in città da tempo le cose vanno in un altro modo, nelle nostre montagne una donna, ancora oggi, non ha nessuna chance. Una donna senza marito non è nessuno. Dunque, la mia scelta è stata giusta. In questi 40 anni non mi sono mai pentita, né ho mai avuto la tentazione di tornare indietro, fare shopping in città, andare a ballare, quelle cose mi piacevano quando ero Pushka. Da quando ho cambiato identità, io sono in lutto, mi vesto sempre di nero. La femminilità dentro di me non ha lasciato nessuna traccia, l'ho persa del tutto. Anche se purtroppo qualche lavoro in casa mi tocca farlo. Beh, ma in questi tempi anche qualche uomo dà una mano alle faccende domestiche, no? Per i maschi non ho mai avuto nessuna attrazione, solo rapporti di complicità e rispetto reciproco. Le donne? Beh sì, le guardo. Ma non ho mai fatto niente con nessuno, né con uomini né con donne. Il sesso me lo sono negato in partenza. L'ho cancellato insieme alle mie viscere. Vorrei raccontare la mia storia, non solo perché sono una delle ultime testimoni della scelta di un pugno di donne dimenticate tra le montagne, ma anche perché dentro di me spero che un giorno nel mondo e soprattutto nel mio paese non sarà più necessario diventare una vergine giurata per avere un ruolo e un valore nella società degli uomini.